All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, alla cena dei regini, applausini. Che entusiasmo ragazzi, è stata una grande settimana, abbiamo fatto tante cose e tra poco ne parleremo. Adesso un piccolo angolo musicale e poi iniziamo e intanto noi continuiamo con la nostra cena. Akhtar Akhtar, Lost in Transit. E ragazzi, alla cena dei regini. Panda, stai registrando? Panda sta facendo la versione video della cena dei regini che potrete trovare su YouTube. Parliamo adesso delle cose che ci aspettano da fare in questa prossima settimana, che vede ancora ovviamente i protagonisti, i grandi lavori che si stanno facendo a Laos. Laos è destinata a diventare una struttura reale, innanzitutto, Tanto cominciare, è sì. comunque più grande e accogliente. Inoltre, per sfruttare questo periodo, diciamo, tra virgolette, morto, stiamo registrando il nostro corto che è iniziato qualche giorno fa con una ripresa che ha visto protagonista il Pusher. Il Pusher che farà un ruolo molto particolare Non che svegliamo, non possiamo non svegliamo. svelare. Però già dalla foto si potrebbe intuire, se siete andati su Facebook, Sul sul gruppo. Facebook, Secondo me onestamente. Fellini si rivolta nella tomba, No, no, peggio, peggio, vorrebbe resuscitare per venire a partecipare al nostro film. non vorrei dire una cosa sacrilega, ma qualche mostro sacro del cinema ha già confermato la sua presenza alla prossima zombie walk, perché non gli basta rigirarsi nella tomba, vogliono proprio venire a Camminare con camminare. noi, certo. Kubrick, Fellini e altri due. Comunque, no, è un corto da una storia molto particolare che non possiamo svelare. Dai No. protagonisti molto Il genere ce lo particolari, potete che dire, a no. me il genere. È una specie di thriller psicologico giocato molto sul conflitto tra il bene e il male. Quindi una cosa particolare che Interessante. vedrà Dato che tra. si gioca molto sia sulla regia, diciamo, che sulla sceneggiatura, cioè su un montaggio particolare, già svelare solo i personaggi È dura. vorrebbe già svelare tutto. Certo, ma abbiamo già capito di che si tratta e poi comunque magari da un gioco poi diventa una cosa Seria, seria, molto seria, anche perché vedrà come attori i ragazzi dell'House, quelli che partecipano qua, e poi inoltre è una sceneggiatura fatta da noi, quindi completamente autoprodotto e autofinanziato, quindi Insomma, creatività una da cosa molto vendere bella. all'Ausubar. Quasi, anzi, ora stiamo un po' soffrendo questa mancanza di location e anche di, diciamo, staff tecnico, anzi, approfitto, chi vuole, Partecipa, vieni, Doc, anche tu. cerca te. Dobbiamo fare il manifesto tipo Zio Sam con la tua faccia. I want you. No, io farei il manifesto tipo WWF, mi sto estinguendo. Venite, se avete voglia di partecipare come attore o come staff tecnico, potete contattarmi, il back.it per trovare tutti i contatti e comunque dopo una breve conoscenza, giusto per capire di cosa siete fatti, potrete partecipare alle nostre iniziative. E quindi proseguiremo con questa registrazione di questo corto. Altre cose da fare? Rilassarci. Rilassarci perché siamo troppo stressati. Quante cose dobbiamo fare? Basta. No, in questo periodo ci concentriamo molto sulla produzione di video e comunque queste cose più così per poi tornare all'organizzazione degli eventi, concerti e dicendo, con la L'operatore chi è? ripresa La del. troupe a seguito così può fare. Io sto facendo la One man regia band. e One poi adesso si uniranno altre persone. Ragazzi, adesso continuiamo con lo strangolo musicale, a dopo. Bella Ruse, push on. Step sideways into you, being crumbles like an old brick wall, falling as we push on through, and I know you won't let me down. No matter what I do, yes, I know you won't let me down. So let's just push on through. Backward rider in the breeze. He comes for you, he comes for me. My fingers ache like I'm a withered oak. We go forward in the moon. I step sideways into you. Being crumbles like an old brick wall. Falling as we push on through. And I know you won't let me down. No matter what I do. Oh, oh, oh, yes, I know you won't let me down. So let's just push on through. E bentornati alla Cena Regini, www.back.it, cliccate la Cena Regini per contattarci, per ascoltare le puntate precedenti e anche per sapere un po' di più di quello che avviene durante la cena. Devo dire, avviene di tutto, come abbiamo visto prima, improvvisazioni musicali e commistioni varie, e tanto meglio così, perché anche questo fa parte dello spirito della cena. La cosa bella è fare la cena, mangiare, stare assieme, e non fare il solito programma che c'è sulle reti, così le radio, perché comunque quelle sono cose noiose. Qua ci divertiamo, e mangiamo, che non è male. Mi lascio viziare un pochettino, lascio anche qualche pensiero, insomma, un po' più profondo, diciamo, andiamo fuori anche adesso. Passiamo, dose, però. Passiamo adesso all'angolo del sociale. No, volevo raccontare una bellissima visita al museo che ho fatto la settimana scorsa, che mi ha per certi versi stupito. Questa struttura che adesso è tornata attiva in minima parte, però comunque ho visitato un pochettino anche gli altri ambienti ed è davvero impressionante adesso guardarla, anche perché vabbè adesso è vuota, però entrare e vedere il grandissimo spazio centrale che si è ricavato è veramente stupendo. Cioè quello che era il cortile centrale una volta aperto adesso è stato chiuso, e entrando c'è questa visuale bellissima comunque di questa sala enorme che è fantastica. Non mi hanno saputo dire esattamente la locazione della biglietteria, cioè, c'era io chiedevo esattamente la disposizione degli spazi, però ancora non è forse chiaro neanche loro. Però, vabbè, bello, però è stato fantastico, quadro di eccezione, il Fontana, un quadro di Fontana che è un quadro bellissimo, l'hai visto tu? No. Ce l'hai presente? Sì. È una tela bianca con due graffi. Che detta così non rende ovviamente, però è veramente nella sua idea geniale, perché rappresenta, ne parlavano ad Art Attack. come farla, come farla. E io ero là con la mia nipotina che ha visto un paio di quadri e ha detto questi qua li posso fare anch'io a casa mia, e io infatti gli ho detto falli e li rivendiamo, ma questo non è il caso di dirlo. Nino, il museo si sta evolvendo, questa piccola parte è stata recuperata, su un Picasso ho visto che c'è della fuliggine, già. Sì, diciamo, beh, intanto il fatto che tu l'abbia potuto visitare è significativo, insomma, finché sta aperto, finché funziona, anche perché comunque il museo diciamo rappresenta un po' un calarsi nel mito, no? Quindi noi abbiamo un mito, diciamo così, insomma, architettonico, ma che contiene appunto questi resti che si richiamano al mito della Magna Grecia, quando probabilmente in Brianza erano ancora allo stato brado, diciamo, con tutto il rispetto, era quel della Magna Grecia, ma questo mi sembra quasi banale ribadirlo. È importante dire invece cosa che ricchezza può rappresentare per Reggio Calabria, perché quando le cose poi, specialmente chi viene il commercio lo sa, io non sono commerciante, ma le cose più sono confezionate bene, più hanno quell'alone di prestigio, più sono pagate bene, no? Quindi già solo questo potrebbe far decollare la città, insomma. E quindi la battaglia che abbiamo fatto, insomma, tante associazioni di Regine, che c'è stato un forte contrasto, l'altra volta ne abbiamo parlato, che c'era questo progetto devastante di Piazza De Nava. A tal proposito, devo dire che vi ho pensato, quando perché uscendo dal museo, proprio dalla porta del museo c'è una prospettiva bellissima di Piazza de Nava, una cosa inimmaginabile, cioè effettivamente la prospettiva ideale per gustarsi la piazza è dall'entrata, sì. Perché uscendo dal museo si vede l'apertura visiva della piazza, la statua al centro ed è fantastico. È la classica piazza lì, stile Liberty, no? Quindi... che poi è confacente a tutto il resto della città, no? Tutta la città è, i migliori edifici sono in stile Liberty. Quindi piazza è come un pugno in un occhio, insomma, voler stravolgere in senso contemporaneo una piazza che ha anche una sua storia, una tradizione. Quindi la cosa importante è che quando i reggini si coalizzano, indipendentemente dai loro colori politici, perché lì comunque è stato uno scontro durissimo, bisogna dire la verità, scontro durissimo su cui nessuno dei presenti ha fatto un minimo passo indietro. Perché comunque tutti concordi sul fatto che il progetto, insomma, è devastante per la città e poi significherebbe bloccare il centro storico, insomma, il centro di Reggio per 10 anni, 15 anni, come è successo per Piazza Italia. E quindi invece è importante che la città adesso funzioni, che decolli, il museo che i bronzi si tornino nella loro sede naturale prima possibile e che tutto sia confezionato in maniera tale che poi ci sia il grande richiamo, il grande afflusso, no? Basta ricordare qualche anno fa, non sono belle, così bei sogni, perché qualche anno fa i pullman, arrivavano 100 pullman in una giornata, arrivavano all'imbocco dell'autostrada, 100 pullman in tutte le gite scolastiche, significa una quantità di denaro per Reggio Calabria veramente notevole, come acqua in un deserto, insomma. Quindi il progetto comunque adesso è fortemente contrastato dall'associazione dei cittadini, si è trovato una via di mezzo? No, ancora no. Ma quel progetto sicuramente magari non si rinuncerà totalmente al discorso, diciamo, per quanto secondo me, ma non solo secondo me, secondo i migliori, insomma, esperti della città, insomma, persone che proprio le associazioni come Amici del Museo, ma tantissime altre. E riconoscono che già è un problema di spazi che metà museo è occupato dalla sovrintendenza, cioè proprio benissimo gli uffici essere trasferiti da un'altra parte, non me ne voglia qualcuno della sovrintendenza, ma si potrebbe liberare insomma un grande spazio all'interno del museo spostando questi uffici da un'altra parte. Le possibilità sono tante, ma i soldi sono già stati stanziati per la piazza? Sì, questi sarebbero diciamo 10 milioni e mezzo di euro che non sono poi garantiti al 100%, perché poi alla fine questi soldi, finché arrivano tutti, il resto di lavoro completato deve essere portato a termine. Poi il progetto è lacunoso, perché anche il ripristino della piazza non è previsto nel progetto, quindi sì, insieme a mille altre eccezioni, insomma, non stiamo qui a ripetere. La cosa importante è che a Roma la cosa è arrivata a Roma, insomma, questa volontà popolare, e questa è una cosa storica a Reggio Calabria, storica, che dopo tanti anni i cittadini si mobilitano e ottengono un risultato del genere. Quindi questo può valere anche per altre cose, ma ne parleremo dopo magari. Sicuramente. Ragazzi, intanto lanciamo un momento di confronto con i nostri ascoltatori, sperando che siano tanti, ovvero potete scrivere a cena@back.it secondo voi i modi per rispondere a questa crisi della città, cioè qual è la prima cosa da fare, il primo intervento che fareste voi per rispondere alla crisi cittadina. Vediamo cosa hanno da dire. Aspettiamo, se vuoi ripetere un attimino l'indirizzo. cena@back.it, comunque da www.back.it si trovano tutti i contatti. Adesso siamo anche su Facebook con la pagina La Cena dei Reggini, se si vuole. Sì, perché noi poi vogliamo dire la nostra, ovviamente, quindi vogliamo confrontarci con gli ascoltatori, se loro ci dicono secondo loro la loro priorità, la cosa che farebbero per prima cosa. È chiaro. È interessante. E ragazzi, adesso continuiamo con uno spazio musicale e riprendiamo tra poco. Cartel, I Remember When the Gates. We used to stay up all night sometime, while our people getting high, we would cry, and just to get by, had to turn to the life of crime, to survive. We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the light. I miss you more than ever, despite the pain. Still it's hard to put it all together. Your life was claimed, feels like a dream. I'd have never thought you'd be the first to go. Never felt your pain, cause you kept your life so personal. And even though you gone, we overwhelmed Jamel with love like he was a newborn. Never let him stay outside too late or even too long. Could never understand the pain we felt to have to move on. And everybody miss you, even Cypher and our cool song. To see you die young was wrong, that's what I get tight from. Since grimy niggas live long, I'm moving like them. So when the night come, I eat, sleep, and breathe and sin. And still get right from some weed or drinking Seagram's gin. You know the life, ma, it's on until we meet again. And though you gone, in my heart I keep you deep within. And can't a night go by without us wondering why you had to die? It brings tears to my eyes, We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime to survive, We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime. It seemed like yesterday we yapped about Prada and Gucci, and how we used to boost things and take them back to 2C. How you snuck in blue trees and new V's. How you always stayed dipped with new kicks and new jeans. You was the shit in new queens, better than most niggas who had a whip, stacking crazy chips back in 86. My cousin slash little sis doing what I was glad to see, out there getting money. Fuck what people said, we had to eat so we could live, so we could have a decent crib. We played the streets to survive and try to treat the kids, and stayed discreet, had no time to try and see no bid. Though it was deep, all we could do was try to pee to live. You know the streets, now we speak about you every day, while blowing trees and laughing shit you used to always say. Me, you, and D did what we had to do to get this cake. You left the team and was a player no one could replace. We love you, D, and miss you. We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime to survive, We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime. Wish I could go back in time and rewind your life and bring it back to the beginning, when you was little and Winston called you stinking. I was living in the projects, would see you on the weekends. You fell off your bike, I rolled over you when you was screaming. It wasn't like I was trying to make you suffer bleeding, cause we was tight, even then we had it rough. Now we grieving your life, can't believe you tried the stuff that had you fiending all night. But we still hold your love, plus you are queen in my eye. And we know you keep in touch through our dreams, and at night you provide us and guide us against strife. Living life with pride, you survived over 10 fights. Just to see you die getting high hurt me 10 times as much. Wish I could blow a Dutch in your name and get the tuck in the pain, cause yo ain't nothing the same without you, D. We miss you. Stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime to survive, We used to stay up all night sometime. While our people getting high, we would cry. And just to get by, had to turn to the life of crime. Ragazzi, nati alla cena dei regini, adesso un angolo iniziamo un po' particolare, un angolo diverso, e qui ognuno è chiamato ad ascoltare anche con la propria coscienza, la propria sensibilità, l'angolo alchemico trasformativo, in compagnia della nostra amica Sapom, che ci parlerà un attimo di argomenti diversi da quelli che trattiamo solitamente. Ciao Sapom. E innanzitutto in questo primo angolo, in questo primo esperimento, parliamo di entusiasmologia. Cos'è l'entusiasmologia esattamente? L'entusiasmologia è praticamente la trasformazione nostra, mentale proprio, dal punto di vista psicologico. Mm-hmm. Quindi non più il negativo, ma il positivo. Che non è una corrente positivistica, ma è proprio un cambiare lo sguardo sul mondo, a cominciare dal nostro cuore, cioè ritornare al nostro sé interiore, dove un tempo, proprio alla nascita, noi avevamo proprio la gioia nel cuore. E con i vari condizionamenti che si susseguono durante la nostra crescita, appunto subisce una trasformazione a volte in negativo, perché io osservando le persone mi rendo conto che sono pessimiste, lamentose. L'italiano proprio è come se fosse un po' un vittimista, no? Viaggiando nelle altre nazioni, tipo la Spagna, la Francia, osservo che hanno sempre questo modo di vedere la vita in frazionato, no? Dunque la mattina lavorano, pomeriggio si dedicano magari alla propria persona, alla sera però trovano il momento per il divertimento, quindi anche per l'entusiasmo. L'entusiasmo non bisogna dimenticare che psicologicamente anche aumenta il sistema immunitario. Esatto. Quindi produce serotonina, endorfina e quindi anche chimicamente, scientificamente dà un beneficio. Dà un beneficio, infatti non ricordo bene se è la clinica Bellaria di Bologna che stanno facendo proprio una specie di esperimento, no? Dove le persone meditano e durante questa meditazione appunto in positivo sprigionano degli anticorpi, appunto degli anticorpi che aumentando questi anticorpi il sistema immunitario appunto aumenta, di conseguenza guarisci prima. Quindi entusiasmo come salute e come anche maniera di prendere meglio la vita, diciamo, certo. Con più leggerezza, che poi diciamo recuperare la leggerezza dell'infanzia o comunque delle prime fasi. Sì, la gioia del cuore. Per arrivare a questo obiettivo si arriva tramite la meditazione o è solo un'impostazione? Non solo, ci sono anche alcuni film, alcuni libri da rivedere, no? Degli studi, proprio c'è un percorso. Ti senti di fare dei nomi, di consigliare qualcosa? Mi sembrerebbe forse di fare pubblicità a queste persone, ma comunque credo che ormai si conoscano molto bene appunto queste persone. Uno è uno ricercatore autonomo, scienziato, si chiama Fabio Marchesi e lui è il fondatore dell'entusiasmologia. Io in prima persona, in modo esperienziale, ho seguito gran parte dei suoi convegni, conferenze e ho trovato proprio personalmente grandi benefici. Proprio... Da quanto tempo è? Cioè, quanto è passato dall'inizio di questo cammino fino ai benefici, fino a quando hai sentito? Io sono una persona tipo spugna, quindi assorbo subito le cose, entro in empatia con la gente, quindi soggettivamente al massimo 3 anni. Però una persona magari meno empatica forse 4, un annetto in più, perché credo... c'è anche una predisposizione diciamo psicologica, sì, perché è molto difficile cambiare anche le nostre abitudini quotidiane, per esempio, perché ci sono dei piccoli esercizi mentali, tipo puntare l'attenzione al presente. E qui c'è anche l'ultimo cosiddetto maestro illuminato, Eckhart Tolle, che consiglierei anche il libro, se posso, certo. Che mi è servito molto anche per rimanere nel momento presente. Si chiama Il potere di adesso e ti riporta appunto al momento presente, in 1000 sfaccettature, 1000 esempi. Di conseguenza tu non puoi fare altro che rimanere nel tuo momento. Cioè, come sfruttare e vivere il proprio momento. Il proprio momento, perché in realtà sì, il passato non ti appartiene. Già il momento di poco fa non c'è più, lo puoi prendere? No. Il futuro è frutto della tua immaginazione, della tua creatività, fantasia, ciò che vuoi. E quindi non ti appartiene nemmeno. Può succedere oppure no. Quindi cos'hai? Presente, logico. E come disse De Crescenzo, è un battito di mani, proprio quel momento sì. Impercettibile. Sì. Che va. a passare. Noi ringraziamo la nostra amica Sapom per questo angolo. Spero io che ringrazio tantissimo. Lei ha scelto il di... No, figurati, è stato un piacere averti con me. È stata anche questa stasera un'esperienza molto emozionante. Un'esperienza. Magari la gente può anche commentarla con cenacocciobacca.it chiedendoti dei suggerimenti oppure parlandoci delle sue esperienze, magari. Certo. Perché alla fine, per iniziare, il primo passo, credo, in questo cammino sia semplicemente prendere la vita con entusiasmo. Poi con entusiasmo. C'è lo studio e tutto il resto. Che... Quindi da domani suggeriamo, prendete le cose con entusiasmo, ci con fate entusiasmo. Sapere come va. Cioè, che essere in contatto con il divino dentro di te, entusiasmos, yes. Dal greco giù di lì. E ragazzi, ringraziamo Sapom che non si è fatta inquadrare, ha preferito questa partecipazione velata, diciamo così. Sì, per una forma di timidezza assurda. Che combatteremo. Combatteremo spero, con entusiasmo. Spero. Ma è meglio perché comunque dà più fascino a questa... Mistero. Angolo, adesso continuiamo con l'angolo musicale. Double Six Project, You Are My Love. We'll be right back. Ragazzi, bella cena dei Reggini. Passiamo invece adesso a un classico della cena dei Reggini, la nostra classifica. La classifica che questa settimana vede 10 cose che non crederai mai di internet. Le cose incredibili che sono state raccolte in questi relativamente pochi, tra l'altro, anni di attività. Quanto è Le so tutte. importante nella vita di Andrea internet? Tanto, Tanto, perché non abbastanza. si riesce neanche a quantificarlo, bellissimo. Più della sua Iniziamo. vita stessa. Toglietemi tutto o non la mia connessione. Uccidetemi, ma non cacciatemi internet. Numero 10. Il totale complessivo dei siti violati negli Stati Uniti dal 2005 è 600 milioni. Però... Praticamente tutti. Cioè, ci sono 600 milioni di siti. Sì. Di, che sono stati e violati. Uno perché c'è quello, c'è quello degli, violati, degli hacker che è rimasto. O magari se li hackerano tra di loro. E quindi una bella, come dire, percentuale di di siti violati, di siti, cioè, tutti. 600 milioni di persone pure adesso psicologiche. Quasi, perché sono 600 milioni di persone che la mattina si sono svegliati, come successe a me anni fa, e hanno trovato la pagina bianca del sito con una scritta del cavolo di qualche gruppo. Mi ricordo una creepypasta, ma... La creepypasta sulle violazioni dei siti. Ho quella pagina bianca. Quasi. Fantastico. Ma te la ricordi, la vuoi raccontare? No, è lunghissimo, quindi... Che peccato, ci sta. Succedono cose inenarrabili, ma passiamo avanti. Con c'è una legge in vigore in 46 stati che richiede alle imprese di notificare se le informazioni personali sono state compromesse. Questa non è in vigore in Italia, sicuramente perché non ci sono 46 stati in Italia, perché nessuno di questi stati è l'Italia. Perché comunque a me sembrava una cosa dovuta, benché l'unica poi violazione importante che è stata comunicata è stata quella di Facebook qualche mese fa, quando ha avuto un problema ai server, mi sembra irlandesi, che sono stati bucati, ha mandato un'email che diceva scusaci tanto, non ci teniamo alla tua privacy, eccetera, quindi... Infatti quella... una collega oggi ha ricevuto un'email... Su cui c'era scritto il tuo conto PayPal su Facebook Irlanda è stato bloccato. Un classico. Facebook Irlanda? Sì, il tuo conto aperto, la fatturazione è stata bloccata. Ho detto scusa, che cosa ti stavi fatturando su Facebook? In Irlanda. E fa, ma stanno cercando un nuovo fotografo qualche cosa. Bellissimo, e ti hanno fatto i conti con la saggezza reggente. Con la saggezza reggente. No, un classico, questo fino a qualche anno fa arrivava la mail che diceva sono Yolanda Carrisi dell'abito in Arabia, ho bisogno di 200.000 euro per far partire dei soldi che a te te ne arriveranno 1 milione, però mi devi adesso mandare 200.000 perché... Certo. E funzionava, tra l'altro, perché mi hanno... Sì, perché il discorso di queste catene, per quanto siano stupide, è che a loro non costano nulla. Quindi mandano 400 milioni di email, 400 sì, anche perché, persone. Comunque, trovi quindi... quelli che ti vendono le mailing list. Sì, tu ti compri una mailing list internazionale, magari, di centinaia di indirizzi email, migliaia di indirizzi email, la mandi inoltre a tutti... E via, qualcuno a bocca. Sì, qualcuno, i grandi nomi. Alla numero 8. Il numero di siti web dannosi presenti su internet è aumentato del 600% al 2012, e quindi sono quei siti che poi ti mandano queste mail, Yolanda Carrisi. Sono aumentati perché è un mercato molto florido. E quindi Yolanda, abbiamo preso il tuo nome a caso. Cioè non ci mandare la finanza. Scrivici. Non ci biasimare. Non ci querelare. Numero 7. Crimini informatici sono pronti a crescere ad un tasso del 10% annuo fino al 2016. Quindi la prospettiva è che crescano del 10% annuo fino al 2016 per colpa della vulnerabilità delle nuove tecnologie. Ne sento poco. Anch'io. Il 10% No, ma secondo me perché hanno calcolato che poi si andrà a centralizzare tutto e quindi alla fine ci sarà un grande centro dati o becchi un malloppo grosso tipo buchi Google per dire certo. Tutti gli accessi. Sì, effettivamente questi, stanno tutti concentrando su queste... Ormai sì. Ho sentito che Dolphin sta cercando... Non il ragazzo che veniva qua all'house. proprio il browser sta facendo una raccolta fondi per fare una mega guerra tra virgolette a Google. Fantastico. Poi alla Erin Brockovich, una cosa del genere. Ci proveranno, ci riusciranno. Avete molto duro, vero? Ma numero 6, 3/4 di materiale privato trapelato viene da addetti ai lavori che sono stati autorizzati ad accedervi. Quindi molto, il 3/4 del materiale che viene fuori viene dagli addetti ai lavori. Questo non è bello. Perché effettivamente tu li autorizzi magari a lavorare su quel, su quei dati, a gestirli. Poi cominciano a vagare in giro per il web, non è sicuramente una cosa accettabile. Un po' come ha fatto il programmatore del primo gioco simile di Minecraft, che adesso non mi ricordo come si chiama, che praticamente aveva messo una demo del suo gioco online col source completamente spoglio, decryptato, tranquillo, bello lì, tipo modificatemi per favore, e alla fine sono usciti un miliardo di videogiochi uguali al suo. L'open source che non ripaga. Ma anche un altro evento recente è stato anche GTA 5, mi sembra che è stato rubato, che c'era gente che ci giocava prima della data di rilascio. Davvero? C'è stata questa cosa. Sì, se ne è parlato. Facebook è il gioco preferito di tutti, anche se non è uscito. Qualcuno ce lo deve avere. Ma è uscito. Aspetta che c'è questo. Io non capisco, faccio essere veramente un gioco preferito. Cioè, un gioco molto lascia stare, il 5 non ho fatto il regola d'arte, sinceramente. Quante ore ci hai giocato tu? Ci ho giocato 3 ore a casa di un amico. 3 ore a casa di un suo amico, cioè ti sei installato a casa di questo tizio. Lo faccio sempre. Ok. Dopodiché quando mi finisco mi faccio prestare. Se il tuo amico ci sta ascoltando, per favore fallo smettere. No, per favore ospita anche me. Amico caro, è sto bed and breakfast. Cosa piace? Cioè di 5 il gioco, a parte parla di malavita. Hai capito perché già piace, bravo. A me basta uscire di casa per le malavita, non è quello il problema, dai. Vabbè, cioè, se uscire di casa per le malavita ti investo una macchina. Cioè, puoi distruggere le Ferrari, già questo è bellissimo. Comunque andiamo avanti con un punto alquanto misterioso, perché quando si acquista un nuovo computer portatile è compreso il costo che si destina al recupero dei dati privati. In America si vede che fanno questo discorso, cioè aggiungono un valore aggiunto per che sarà quella che da noi è la tassa per riciclare i per la tassa per i rifiuti speciali. Si vede che da loro funziona anche come metodo di riciclo dei dati. Ma la questione è che tu poi dove lo porti per riciclare questi dati? E soprattutto da quegli esperti, da quegli esperti che poi diffondono i dati in rete. Ma la questione è quella. Tu glieli dai gratuitamente perché dici no, io l'ho pagati. Loro ti danno i tuoi dati, li prendono, una copia la danno a te e un'altra copia la danno al mondo. Che bello. Potrebbe capitare anche questo, però. E ragazzi, è un mondo pazzo, strano, noi ne facciamo parte, come si dice. Andiamo al numero 4. L'importo stimato di persone esposte a ogni singola violazione della privacy è leggermente più grande della popolazione di Portland, in Oregon. Non ho capito. Cioè, le persone che sono state esposte a una violazione della privacy, qualsiasi cosa, è più grande ancora dell'intera popolazione di Portland, in Oregon. Quanta è la popolazione di Portland in Oregon? Tanti, tantissimi. La popolazione tanti. Cerco Portland. Che poi è anche leggermente superiore, quindi popolazione 600.106 nel 2012. Quindi c'è più di 600.000 persone. No, 600.000 polli. 636. Aspetta. È ancora maggiore del numero dei siti che sono stati violati. Sono state violate più persone che siti. Questo, tutti questo... di persone. Questo mondo è uno scolapasta informatico, ragazzi, non saprei. Scolapasta. Scolapasta. Queste persone che ti trovano i propri dati ovunque. Che bello. Basta guardare, secondo me, le foto che ti escono su Google, dove tu digiti qualsiasi parola. E le foto di chi? Cioè, una ragazza si è trovata foto della sua torta pubblicate su un... che lei aveva pubblicato su un forum, prese per fare pubblicità su un sito, non c'è già niente. Collegato a una pagina Facebook. È successo anche in una ragazza calabrese che fa cosplay, che ha fatto quella foto con un trucco particolare. Sì, sì. Shino Fulo Tower, che ha fatto, che vende il tuo trucco, è stato usato dai negozianti dei negozi cinesi per alcuni prodotti, è stato usato la sua immagine come per ovunque, tutto il mondo. L'ha trovato ovunque una foto che ha scattato per fare una prova della... Ma guarda che è successo anche con un'altra ragazza di Catanzaro, abile con Photoshop, che si è ritrovato che alcuni mercanti russi usavano i suoi prodotti come foto per le tax e la tappetina del mouse. Che figata. Cioè questa cosa è trovata... Sì, è stata una cazza con l'immagine che ha fatto lei. Magari i tappetini del mouse quelli con... No, no, quelli, non quelli. Quelli, ah, quelli in silicone, dici. Un poggia polso. Sì, sì. Beh, no, il poggia polso. Guarda che ormai... Se ti cerchi qualcosa su Google, cioè, mi sono trovato anch'io cercando il personaggio di cui ho fatto il cosplay. Fantastico. E ero tipo, perché? Perché sono là? E magari adesso, mentre parliamo, in Giappone c'è un ragazzino che si beve il latte e c'è una tazza con l'immagine del panda. Che fai con? Leggermente modificata come per avere gli occhi a mandorla. Ovvio. No, perché lui suona esotico in Giappone, perché è un panda, quindi... Mondo! Due terzi, nuovo punto, delle violazioni dei dati del 2012 sono stati a causa di errori umani o errori di sistema. Sistema ovviamente Windows. Non è inutile. Cosa? Non c'è altra cosa. Però è vero, perché comunque anche l'incuria fa questi strani effetti. Quindi non sempre un errore delle macchine oppure una... malizia di terzi. Numero 2, solo una mail su 5, questa è fantastica, sono legittime senza malware. Cioè ormai di tutte le mail che si mandano nel mondo, una su 5 soltanto è effettivamente una mail. È vero, l'ho constatato pure io. È vero. Anzi, secondo me anche di più, sinceramente, perché... Non pensavo così tanto, perché effettivamente... Usce, lo devi smettere di spammare. No, è colpa di Yolanda Carrisi. Yolanda, stiamo prendendo te. Cioè, ora tutti gli amici di Yolanda respingeranno tutte le sue mail. La verità è che Bush la sta prendendo a cuore, perché in realtà Yolanda Carrisi è lui. È lui. Ha questo nick alternativo su... su internet. Cos'è che fai su YouPorn tu? Non facciamo pubblicità a questi siti scorretti. Al numero 1, 30 miliardi di pezzi di mail di spam sono inviati ogni giorno nel 2012. Al giorno. È chiaro, 30 no? 30 milioni? 30 miliardi? 30 miliardi? Guarda questo traduttore di Google. Che... Guarda questo traduttore di Google cosa ci combina. 30 miliardi di mail di spam, vorrebbe dire questo, sono inviati ogni giorno, sono stati inviati nel 2012. Ogni giorno del 2012 sono stati inviati 30 miliardi di mail. Considerando che... Di spam. Cioè, ovviamente più mail di spam che persone. Eh sì. Ogni persona riceve 10 mail di spam al giorno, considerando l'età... Ma considerando che ci sono molti paesi che non hanno internet, per ora, continenti interi che sono... senza internet, mi sa che ce le stiamo beccando tutte noi. Ed è colpa di Panda. Ovvio. Cioè, digital, prima di tutto io. Quindi sei tu, Yolanda Carrisi. Ovvio. Però non è colpa finora. Avremo nella prossima puntata ospite Yolanda Carrisi. Un uomo che si è dedicato allo spam. Un uomo nervo rude. Che ha fatto dello spam la sua ragione di vivere. E adesso continuiamo con quest'angolo musicale. Non mandate spam nel frattempo. E tu vedrai che l'email della cena regi che trappiene. No! Non mandate spam a cena ghiaccio di Bacconte. Rod Trotter, Drinking and Thinking. She asked my name, I played the game, it's all the same until the first date. But she kept looking at the waiter. His lower ping, it must have made her. Oh, I should have known she was a tramp. She drank her fill, I paid the bill, kept thinking, still it's just the first date. Then she went home with the waiter. His bigger frame rate must have made her. That's when I knew she was a tramp. So the games go on and on and on, and latency is everywhere you go. I got my shoes shined, but I can't seem to catch her online. That's when I knew she was a tramp. Ragazzi, ragini, noi ci riprendiamo le nostre cose e ce ne torniamo a casa. Un po' turbati da una notizia che è arrivata proprio adesso alla tavola della cena, ovvero la scomparsa del grande Giuliano Gemma, un grande attore a cui dedichiamo un applauso. Grande Giuliano. Lui ha interpretato Tex e altri famosi film western, è stato un po' l'eroe che tutti volevamo essere da ragazzini e quindi ci è scomparso improvvisamente un incidente stradale e questo ci ha un po' turbato, no? Comunque. Ragazzi, alla prossima settimana ci ritroviamo e un saluto a tutti. Ciao. Ciao.